9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 1° luglio, l'inizio di un fine settimana, forse il primo veramente estivo. Eppure sapete, qui tra manovra, consiglio dei ministri, come vedete l'atmosfera di ebollizione non solo per il sole, per così dire, che vi auguro naturalmente questo fine settimana. Ma oggi noi dedichiamo, dopo esserci occupati della manovra di ieri che trovate oggi sui giornali, ci occupiamo di un tema che anch'esso è molto caldo da 17 anni tutti i giorni nella realtà italiana, perché è un tema che ha a che vedere con il crinale fondamentale delle vostre preferenze politiche, della maniera in cui vi percepite, vi autopercepite, vi proiettate, vi proponete, scegliete o non scegliete se andate a votare, a seconda di come andare a votare, se ci andate o meno. E tutto questo ha a che vedere con il crinale fondamentale della politica, e cioè il famoso dilemma riproposto un tempo da Norberto Bobbio, che ne fece argomento di un saggio che io ho considerato fin da allora molto datato, molto storico, che però ha fatto scuola nella politologia italiana e che però cambiano i tempi. Di che cosa ci stiamo occupando? Ci stiamo occupando di due categorie fondamentali, la destra e la sinistra, rispetto alla propria identità, a quella delle scelte collettive, della maniera di misurare e percepire se stessi in relazione agli altri, in relazione a come si influenza le passioni, le preferenze di ciascuno, e attraverso queste si contribuisce a determinare poi la vita pubblica di un paese. Destra e sinistra sono da sempre, nella modernità, si potrebbe dire dalla rivoluzioni di fine Seicento liberali britanniche, poi da quelle settecentesche in Francia e negli Stati Uniti, il criterio su cui si organizzano i cleavages, le linee di continuità e di rottura e gli aggregati costitutivi, culturali delle constituency politiche, naturalmente cambiano nel tempo e cambiano anche in tempi molto rapidi rispetto al variare dell'offerta politica. Ma la cosa fondamentale innanzitutto è come ciascuno di voi si percepisce rispetto a ciò che pensa sia oggi o sia stato ieri o sarà domani la destra e la sinistra. In relazione all'Italia ovviamente tutto questo poi significa anche come avete vissuto da 17 anni a questa parte il bipolarismo molto traballante, molto imperfetto, no? Della Seconda Repubblica, con l'ingresso in campo di Berlusconi, un bipolarismo con questa legge elettorale maggioritaria mutata, a cui però non abbiamo poi fatto fronte con un cambiamento della forma di governo e della forma di Stato. Ma fatto sta è che noi parliamo della vostra scelta perché innanzitutto mi ha molto incuriosito un libro che sono sicuro l'assoluta certezza di voi non avrà considerato in questi ultimi mesi. Non sarà per quel libro che voi sarete andati a votare facendo una scelta o l'altra alle ultime amministrative, è come se si è vista la differenza rispetto a prima, una bella sberla rispetto a maggioranza e governo. Non sarà guardando quel libro che voi siete andati a fare la vostra scelta e avete fatto il quorum sui referendum, però chissà, secondo me quel libro vi aiuterebbe molto a capire come la pensate, come è cambiato il vostro pensiero e magari come la pensereste domani, perché questo libro di cui parliamo oggi, che a me è molto incuriosito, io ve lo consiglio molto, perché è un libro che vi può con voi, con la vostra famiglia, con i vostri amici indurre a fare una riflessione di fondo. Ma davvero siete di destra se siete di destra, o siete di sinistra se vi pensate di sinistra, o non è il caso di considerare qualche cosa? E allora questo è un libro molto particolare. Allora ne abbiamo qui l'autore, il curatore meglio, perché l'autore è un po' un giallo, questo autore, curatore, si chiama Diego Gavagnin. Io lo saluto e lo ringrazio perché ci accompagnerà in tutta questa trasmissione. Buongiorno e grazie a te Diego. Grazie a te Oscar soprattutto. Allora, noi parliamo innanzitutto di questo libro, questo titolo, innanzitutto diamo la guida a chi ci ascolta. Come si intitola, dove si trova, chi è l'autore? Allora, il titolo è semplicissimo, sei di destra o di sinistra, rigorosamente col punto interrogativo, test e guida pratica per politici ed elettori, perché noi usiamo in realtà il termine libro, ma vuole anche essere manuale, tant'è vero che si apre con un test, un lungo test, anche articolato e anche complesso. Pronuncia bene, un test, non un testo. Un test. Ecco, cioè test come se fossero i quiz della patente, per capirci più o meno. Esattamente, il quiz della patente che ti permettono però di autocollocarti tra estrema sinistra e estrema destra. Due premesse, il libro è abbastanza diffuso, tutto il circuito Alerion, tutte le molte librerie indipendenti, sicuramente più o meno occhio un terzo delle librerie, però soprattutto internet, su internet tutte le librerie su internet, se digitate trovate assolutamente il libro, è molto facile da acquistare, eccetera. Quindi il titolo è Sei di destra o di sinistra e l'autore sei tu. L'autore no, l'autore è questo, no, l'autore è un mio amico, effettivamente, tra l'altro abbiamo anche, così forse forzando un pochino, un amico di Diego, l'autore di questo libro, è un mio amico il quale non vuole apparire, è totalmente disinteressato. È un anonimo. È un anonimo, il quale ha deciso di investire, perché ovviamente sono operazioni che costano. E chiamiamolo un atto di libertà, di un intervento. Allora, fai rapidamente capire, portale. Visto che naturalmente, siccome è un anonimo, a me tocca dire che è un anonimo molto importante e quindi si affida a te come curatore. Diego Gavagnin è un giornalista che, perché si occupa di economia e di energia, è un punto di riferimento da anni, è stato portavoce dell'autorità dell'energia, è una persona serissima, vi posso garantire, non fa questa operazione per chissà quali ritorni personali, ma l'autore, che resta anonimo, è un italiano molto importante e quindi non ha voluto, per così dire, far pensare a tutti voi capitolo per capitolo che farete i quiz come per la patente, per avere una migliore indicazione innanzitutto a voi stessi, se siete davvero di destra o di sinistra, che si lanciasse in un'operazione, per così dire, così immediatamente dai risvolti solo pubblicitari. Allora, diciamo immediatamente, prima di individuarne un pochino, di seguire il filo rosso dei diversi capitoli, questi capitoli quali sono? Cioè, come si fa a ripercorrere, dando domande a risposte a domande precise, secondo l'autore del libro, secondo il suo curatore che sei tu, a dare una risposta a sei di destra o di sinistra? Quali sono i capitoli? Ma i capitoli sono: è giusto il livello delle tasse? Perché cosa lo Stato dovrebbe fare di più? Per lo Stato potrebbe risparmiare sulle pensioni? La scuola deve essere pubblica? È importante il volontariato? L'immigrazione è un problema? Si affrontano quasi tutti i problemi della vita sociale, della vita economica del paese. Non è un libro che affronta i temi etici, non è un libro che affronta i temi politici. Ha delle premesse. Questo è un libro per delle democrazie, per dei democratici, non sono prese in considerazione altri tipi di regimi. No, diciamo, è un libro pieno di temi politici, ma in cui non si danno indicazioni, si dice preferite questo o quello, se date questa risposta siete così, se date quest'altra risposta siete cos'è. Si è cercato di essere laici, assolutamente laici, anche perché di destra il paese ha bisogno, di sinistra il paese ha bisogno, e la destra invece in Italia è sempre stata un po', diciamo, Diego, per incuriosire chi è a casa, cosa si fa poi? Cioè, il totale delle risposte fa un punteggio che è cumulato dall'identikit? Fa un punteggio con un calcolo del risultato che ti dà il tuo identikit, che è un identikit che non solo ti colloca tra estrema destra e estrema sinistra, ma ti dà anche tre variabili ulteriori, e cioè la tua propensione verso il territorio, verso la comunità, la tua propensione verso il tuo essere di sinistra o di destra nel tempo, e la tua in qualche maniera modo di sentirsi rispetto anche all'ambito territoriale. E quindi queste differenze nel sentire delle persone permettono in qualche modo di collocarsi. Attenzione, ovviamente questo libro ha parte da dei criteri, dei presupposti pensati dall'autore e da me condivisi. Non vuole essere il libro, non è la verità politica, vuole essere uno stimolo al dibattito, vuole essere che quando io ho perfetto, fatto vuole essere magari anche un contributo, avete una fidanzata, volete decidere se volete sposarla o meno, fategli il test, se è troppo di sinistra, voi siete troppo di destra, non va bene, altrimenti bisogna trattare, adesso lo dico concretamente, poiché come è noto io mi accingo a un certo passo, sottoporrò tutte le candidate, no ce n'è una sola, cambierà idea dopo che avrò esaminato con questo criterio del libro di cui Diego Gavagnin è curatore. Vi assicuro, la persona che ha formulato questi quesiti è una persona di grande esperienza della vita italiana, ha visto un po' come è cambiata prima e seconda repubblica e vi propone questa modalità. Sentiamo un secondo, noi abbiamo due brevi contributi che abbiamo preso di un certo livello, perché per così dire iniziamo con il segretario del PD Pierluigi Bersani, che ci declina, ricordate gli elenchi alla trasmissione di Saviano, ci declina secondo lui che cosa sono i valori e le scelte di sinistra. Pierluigi Bersani. La sinistra è l'idea che se guardi il mondo con gli occhi dei più deboli puoi fare davvero un mondo migliore per tutti. Abbiamo la più bella Costituzione del mondo, la si difende ogni giorno, il 25 aprile si fa festa. Nessuno può star bene da solo, stai bene se anche gli altri stanno un po' bene. Se pochi hanno troppo e troppi hanno poco, l'economia non gira, perché l'ingiustizia fa male all'economia. Ci vuole un mercato che funzioni, senza monopoli, corporazioni, posizioni di dominio. ma ci sono beni che non si possono affidare al mercato: la salute, l'istruzione, la sicurezza. Il lavoro non è tutto, ma questo può dirlo solo chi il lavoro ce l'ha. Il lavoro è la dignità di una persona, sempre. E soprattutto quando hai 30 anni hai paura di passare la vita in panchina. Ma chiamare flessibilità una vita precaria è un insulto. E allora possiamo adesso sfumo un po' precario, perché naturalmente l'elenco è molto più lungo, però insomma l'attacco è chiaro: quali sono i valori fondanti secondo Pierluigi Borsani per un'identità e una scelta politica di sinistra nel nostro paese. Sentiamo invece l'onorevole Gianfranco Fini. Sapete, il futuro è libertà, la scissione del centrodestra l'anno scorso. Per l'onorevole Fini che cosa è destra? Per la destra è bello, nonostante tutto, essere italiani. Perché è un piccolo privilegio, perché a Milano, come a Palermo, la nostra patria ha un patrimonio paesaggistico e culturale che il mondo ci invidia. Anche per questo, essere di destra vuol dire innanzitutto amare l'Italia e aver fiducia negli italiani, nella loro capacità di sacrificarsi, di lavorare onestamente, di pensare senza egoismi al futuro dei propri figli, di essere solidali e generosi, perché per la destra sono innanzitutto generosi i nostri militari che in Afghanistan ci difendono dal terrorismo, come lo sono le centinaia di migliaia di connazionali, donne e uomini, che ogni giorno e gratis fanno volontariato per aiutare gli anziani, gli ammalati, i più deboli. E per la destra sono solidali e quindi meritevoli di apprezzamento le tante imprese e le tante famiglie che danno lavoro agli immigrati onesti. Ecco, io sfumo qui perché è analogo il tempo che abbiamo dato, però avete visto, qui c'è un'identità patria innanzitutto, però c'è un grandissimo, da parte dell'onorevole Fini, insistere su valori di coesione, di solidarietà, il volontariato, lo avete sentito, le imprese che danno lavoro agli immigrati, un'idea quindi di identità inclusiva, di integrazione. Certo, questa è l'opinione dell'onorevole Fini ed è un'opinione sulla quale poi la destra si è anche spaccata, però noi abbiamo scelto apposta questa declinazione, che era del tutto paragonabile per sede, per lunghezza, a quella dell'onorevole Bersani, per avere un'idea al volo. Allora ci ha raggiunto telefonicamente Flavio Aperina, che è un deputato di Futura Libertà, è l'ex direttore del Secolo d'Italia. Le chiedo, alla fine di questa prima parte, e poi riprenderemo con lei dopo la pausa pubblicitaria, quello che distingue, secondo lei, a distanza di 20 anni e più dall'analisi di Bobbio, destra e sinistra, oggi in questa seconda Repubblica, si vede davvero nell'atteggiamento dell'elettorato al voto, o c'è una destra e una sinistra che devono cambiare nell'offerta politica a cui gli italiani sono più vicini? Ci si medesima nelle scelte oggi che vengono proposte agli italiani, o per come li conosce lei sono diversi dentro gli italiani nel concepire destra e sinistra? No, io credo che le ultime scelte elettorali abbiano dimostrato che in Italia c'è la confusa nascita di un nuovo tipo di bipolarismo, che non è più destra e sinistra, ma è conservazione contro innovazione. E quindi i temi della destra e della sinistra si incrociano in questi nuovi fermenti di partecipazione che abbiamo visto sia nella tornata amministrativa sia nel referendum, spesso con una forte condivisione di alcuni valori. Ad esempio, il valore della partecipazione è un valore oggi fortemente condiviso sia da chi è andato alle urne da destra, sia chi è andato da sinistra. Il valore della legalità, che è un altro dei valori fondanti della destra, è un valore fortemente percepito in questo momento anche a sinistra. Il problema è che, appunto, siccome in Italia ormai è qualche tempo che sono in discussione non tanto le scelte della politica, quanto le precondizioni della politica, quello che in tutti gli altri paesi è assodato e che unisce destra e sinistra, perché appunto sui temi della legalità, del merito, non è che ci sono divisioni altrove, e quando è entrano in discussione le precondizioni della politica è più difficile fare delle differenze. I valori della Costituzione in Italia dovrebbero essere appannaggio di tutti, al di là degli schieramenti. Quindi conservazione e innovazione, non lo dice l'onorevole Perino, lo dico io, è ovvio che conservazione, a questo punto Berlusconi è più che conservazione che innovazione, può essere conservazione del potere o meno, è ovvio che sono criteri divisivi, però come immaginavo l'onorevole Perina dice nell'offerta politica attuale non si vede questa cosa, e invece c'è una discontinuità che prevale rispetto alle identità. Stiamo esaminando destra e sinistra come crinali vecchi o nuovi di scelta dell'identità degli italiani rispetto a un'offerta politica che forse va un po' modificata per interpretare come destra e sinistra sono oggi vissuti dagli italiani. Lo spunto è questo libro, che torno a proporvi il titolo, Sei di destra o di sinistra, lo trovate in tutto il circuito della libreria Alerion. L'autore è un anonimo molto importante nel nostro paese, ma Diego Gavagnin, che è con noi, giornalista economico, si occupa di energia da sempre, l'ex portavoce dell'autorità dell'energia, ne ha curato la veste ed è una serie di capitoli che vi propongono dei test concreti. Come volete le tasse, come volete organizzare la scuola, come volete organizzare il welfare, la sanità, come pensate che ci debba essere volontariato o meno, su tutte le maggiori scelte della vita pubblica italiana, non sui vostri valori personali, ma della vita pubblica italiana, e si fa un punteggio e si capisce nell'autogiudizio come voi vi proiettate sul possibile asse destra o sinistra. Abbiamo sentito una prima opinione dell'onorevole Flavia Perina sul fatto che, sentiti Bersani, sentito Fini, la scelta secondo lei non è più vecchia destra, vecchia sinistra o nuova destra, nuova sinistra, quella della seconda repubblica di Berlusconi, ma c'è un grande problema di innovazione o conservazione. Abbiamo Renato Mannheimer, non abbiamo neanche Renato Mannheimer, oggi siamo un po' in ritardo, però sono questi gli ospiti che interverranno, come avrete capito. Allora, la domanda invece che torno a fare a Diego Gavagnin è, vediamo un pochino sulla scelta individuata per esempio come destra dall'onorevole Fini, che abbiamo sentito prima, cioè è di destra un'impresa che integra gli immigrati. Se dovessi dire, nel capitolo che riguarda lavoro, immigrazione del libro, sei di destra o di sinistra, lì le domande e le risposte quali sono? Sì, se posso dire al volo, Fini insiste molto sulla parola solidarietà e generosità, così come Bersani non usa la parola diritti, ma sostanzialmente si richiama all'idea che ciascuno di noi abbia dei diritti ai quali bisogna far fronte. E in qualche maniera sia Fini che Bersani esprimono un concetto di generosità, di interesse verso gli altri. C'è chi lo declina con l'intervento dello Stato, cioè con la gestione di alcune cose, e chi invece preferisce declinarlo con l'intervento diretto. Non a caso il libro ha un piccolo paragrafetto che si chiama proprio Pierluigi e Gianfranco. Le mosse del libro partono da qui, entrambi danno l'elemosina a un povero che incontrano per strada, ma uno lo fa pensando: non dovrei dare l'elemosina, il povero dovrebbe essere assistito dallo Stato, prendendo anche dei soldi dalle mie tasche per fare questo. E l'altro? Mentre l'altro invece dice: io do perché ho umana solidarietà e do qualcosa di mio, ma non deve essere lo Stato a dare, devo essere io a dare, io decido cosa fare dei miei soldi. Se lo Stato interviene troppo, la gente non si dà più da fare per sopravvivere, per lavorare, per creare. E quindi qui si trova il discrimine. Bersani dice salute, istruzione, sicurezza, ma anche uno di destra è oggi d'accordo che salute, istruzione e sicurezza debbano in qualche modo essere garantiti dallo Stato. Ma perché? Perché da solo il piccolo cittadino non è in grado di pagarsi la sicurezza. Allora, nell'idea della sinistra, i diritti, cioè prendi qualcosa da tutti per darlo a un qualcos'altro, vale per una condizione universale. Per chi invece è di destra, le tasse, la fiscalità servono per pagare un servizio che io da solo non sarei in grado di fare. Onorevole Perina, aspetta un secondo, Diego. Onorevole Perina, se individuassimo quindi nella sussidiarietà, nel maggiore spazio per la scelta individuale, pur nell'ambito ovviamente di standard generali che lo Stato deve garantire, ma se individuassimo nella scelta personale di una maggiore quantità di reddito disponibile per far fronte a ciò a cui lo Stato non può sempre dare una risposta al meglio, lei si sentirebbe dire che questo è un criterio di differenza anche tra innovazione e conservazione, come ha detto lei prima? No, ma vede, il problema è questo: il crinale del dibattito oggi non è fra chi dà l'elemosina al povero con i soldi suoi e chi la dà pensando che ci dovrebbe pensare lo Stato. Il crinale di oggi è tra chi dà l'elemosina al povero e chi dice fuori dalle balle, gli do un calcio nel sedere, è rimasto disoccupato, torna al suo paese, gli do il reato di immigrazione clandestina e magari lo metto pure in galera se lo trovo un'altra volta in giro. Per questo è difficile oggi parlare di destra e sinistra, perché il dibattito pubblico non è che avviene su, appunto, sulle modalità della suddivisione del reddito, su come tutelare i non garantiti, su come tutelare la flessibilità, il precariato, i giovani. Il dibattito di oggi è tra chi non vuole neanche entrarci dentro questa nel merito del come, ecco, si nel fa merito, no, e no, dice chiaro. L'immigrato disoccupato è entrato regolare, ha fatto il suo lavoro, l'azienda non ne ha bisogno più, per me è carta straccia, lo butto fuori. Chiarissimo. Questo è quello a cui assistiamo. Ok, Perina ci sta riproponendo ogni volta un'obiezione di fondo. Siete così sicuri? Ma il dibattito italiano è davvero sulle cose concrete? No, è sulle suggestioni. E sulle suggestioni quindi è più facile ragionare, ma secondo categorie che non danno l'idea, non danno la risposta a questi capitoli del libro, se di destra o di sinistra. Credo che l'onorevole Perina abbia molto ragione su questo. Abbiamo collegato con noi Renato Mannheimer. Renato Mannheimer è il presidente dell'Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione, collabora per il Corsera, collabora con Porta a Porta, è uno dei più attenti ascoltatori delle opinioni degli italiani. Allora, gli chiedo seccamente, su destra e sinistra, negli ultimi sondaggi e comunque negli ultimi anni, diciamo negli ultimi paio d'anni da che c'è questa legislatura, come ha visto modificarsi l'autopercezione degli italiani e come pensa che andrà ulteriormente avanti alla luce delle serie storiche questa autopercezione degli italiani su destra e sinistra? Ma quello che accade è che sempre meno gente si riconosce. Quando si chiede alla gente, lei si sente di destra o da sinistra, c'è una quota, non so, 40 anni fa il 10% diceva non ero capace, non lo so. Adesso il 30-35% dichiara io non so se sono né di destra né di sinistra. E poi sono cambiati i contenuti. Una volta la sinistra aveva la solidarietà sociale e la destra aveva il liberismo, oggi si trovano tracce di liberismo sia in coloro che si autocollocano nella destra sia in coloro che si autocollocano nella sinistra. Questa autopercezione più variegata, più ibridata, meno identificata, ha a che vedere, secondo l'osservatore, lei privilegiato, nel fatto che è cambiata l'offerta politica o prima cambiano le percezioni degli italiani di sé e poi l'offerta politica si adegua? Innanzitutto l'elemento principale è che sono finite le ideologie. Noi siamo stati caratterizzati il secolo scorso da ideologie molto forti, il comunismo, anche per certi versi l'ideologia i cattolici in politica e altre che si sono esaurite, e questo ha lasciato un po' spaesata la gente che vedeva queste ideologie come punti di riferimento. In secondo luogo, oltre a questo aspetto culturale di erosione delle ideologie, è cambiata veramente la realtà. Una volta c'era una netta contrapposizione di classe anche dal punto di vista degli interessi. Oggi le classi sociali si sono attuite, attenuate, l'operaio ha comunque la sua casetta in proprietà e allora vuole difendere la proprietà, il negoziante non sa bene che presa di posizione prendere, insomma le cose sono molto cambiate. Ho un'ultima domanda per Mannheimer che poi lasciamo andare ai suoi impegni. Nella Prima Repubblica però c'era anche una caratteristica di fondo: il partito di maggioranza relativa lungo l'intera storia della Prima Repubblica, con la sua identità trasversale, interclassista, insomma la Democrazia Cristiana per intenderci e ricordarcelo, stentava a entrare nella duplicità netta, radicale tra destra e sinistra. La Seconda Repubblica è molto diversa perché ovviamente incardina tutto il giudizio sul magnetismo del leader che con la sua discesa in campo ne ha fatto la storia e ne sta facendo i limiti per molti versi, cioè Berlusconi. E la domanda che le faccio è: a questo punto l'identificazione personale di forme di offerta politica carismatica, per così dire, trasformano in profondità, secondo lei, la percezione che gli italiani hanno della destra o della sinistra, oppure sono transeunti e probabilmente vogliono dire meno di quello che i giornalisti nella loro roba quotidiana del dover far titolo eccetera immaginano e descrivono? No, l'identificazione personale vuol dire molto. Qui Berlusconi è stato un caso esemplare. Berlusconi è riuscito ad attrarre anche dei consensi che prima erano, per così dire, di sinistra, proprio per il magnetismo e la capacità personale di convincere. Al tempo stesso, in questo periodo, Berlusconi appare deludere, volente o nolente, anche elettori di destra. Quindi al di là dell'orientamento politico, al di là dell'autopercezione divisione sul continuum sinistra-destra, il carisma personale muta e muta fortemente le cose, non solo nel nostro paese peraltro. Io ringrazio Renato Mannheimer per queste sue opinioni. Chiedo a Flavia Perina se una cosa mi è apparsa chiara nell'analisi dei flussi elettorali del secondo turno amministrativo, nella scopola che ha preso il centrodestra a Milano, a Napoli, a Trieste, a Cagliari. È stato due componenti. La prima componente è che i tipi di candidati proposti dal centro-sinistra con le primarie, spesso con la sconfitta dei candidati del PD a vantaggio di componenti diverse, quella antagonista o quella giustizialista, Italia dei Valori o SEL, ha ottenuto di solito un primo effetto, primo quello di riportare alle urne parte dei dubbiosi del centro-sinistra che magari per altri tipi di leadership e minor coinvolgimento prima non andavano più a votare, erano dell'idea che tanto vinceva Berlusconi e non andavano a votare. Prima componente, quindi, una maggior radicalizzazione e una procedura di scelta dei candidati aiuta a fare il pieno della propria parte, il che in un sistema maggioritario aiuta a vincere. Seconda cosa, oltre che il pieno della propria parte, un inizio di, non voglio dire conversione, ma come diceva Mannheimer adesso, una parte di elettorato di centrodestra che, non trovandosi invece né nella modalità di scelta dei candidati né probabilmente nelle declinazioni della maniera di far politica del centrodestra, si è fatta convincere dall'altra parte. Allora la domanda è: per la destra che ha in mente lei, quella di cui abbiamo parlato fino a questo momento, abbiamo sentito anche Fini, il candidato deve essere capace di fare queste due cose oppure deve presentarsi in maniera diversa, visto che lei ogni volta ci ha un po' spiazzato dicendo no, non è destra e sinistra quello a cui bisogna pensare? Ma io, la mia analisi del voto amministrativo è quello, non penso che abbia vinto la radicalizzazione dell'offerta politica, penso che sia stata una grande vittoria degli outsider, che ricorda molto per molti aspetti sia l'affermazione di Fini a Roma nel 93 sia la successiva affermazione nel 94 di Silvio Berlusconi. Erano due grandi outsider della politica che scendevano in campo, che appunto con una fortissima promessa di innovazione, cioè Berlusconi nel 94 proponeva la rivoluzione liberale, cioè lui parlava di rivoluzione, non è che parlava di modifica, di cambiamento, una proposta fortemente radicale connessa a delle figure di outsider della politica, quindi penso che questo è stato a convincere gli elettori e a causare anche dei notevoli travasi elettorali, perché noi sappiamo che ad esempio a Milano nei ballottaggi la gran parte dell'elettorato di Futuro e Libertà si è orientata su Pisapia piuttosto che sulla Moratti, così come a Napoli, e di conseguenza io credo che oggi appunto il vero crinale, la vera partita in corso nella politica sia di quella per chi riesce a interpretare la voglia di cambiamento delle persone, una voglia poi connessa appunto a dei valori semplici, al merito, al patriottismo, al senso dello Stato, alla legalità, a delle cose che davvero non si sa come collocare nello schema destra-sinistra. Io ad esempio ho partecipato a una delle manifestazioni di piazza negli ultimi tempi, quella per la Costituzione, no? Siamo andati in 3 o 4 parlamentari di Futuro e Libertà, siccome era indetta da associazioni che teoricamente erano vicine all'area della sinistra, pensavamo in qualche modo forse di trovarci a disagio. Era una manifestazione strapiena di tricolori, dove probabilmente, e ce l'hanno detto, si trovavano più a disagio i colleghi parlamentari del PD piuttosto che noi, perché noi siamo abituati a fare sfilate, cortei con i tricolori cantando Fratelli d'Italia, o il piano mormorava, loro avevano sempre sfilato con le bandiere rotte al collo. No, questa componente del PD che in nome dell'opposizione riscopre anche con il 150esimo l'identità patria è sicuramente un altro dei caratteri un po' diversi, avvertiti sull'asse destra e sinistra rispetto al recente passato. Noi ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi un altro eretico, questa volta un eretico di sinistra, non un eretico di destra come Flavia Perina, per la terza parte e per tornare poi al libro da cui siamo partiti. Ve lo ricordo, se di destra o di sinistra, in tutto il circuito, in circuito Alerio, cercatelo anche su internet, le librerie che ce l'hanno, è un libro di cui il curatore è Diego Gavagnini, l'autore è un anonimo in italiano molto importante che vi, in una serie di capitoli dedicati alla vita pubblica italiana, vi dà una serie di quiz su come ricostruire la vostra identità, quella della vostra famiglia, amici, eccetera eccetera. È una bella maniera per passare qualche ora cercando di capire se vi percepite di destra e magari secondo le risposte, i coefficienti che escono fuori, lo siete davvero oppure no. È la maniera per capire che cosa davvero secondo voi sia giusto o meno considerare di destra o di sinistra. Abbiamo sentito l'opinione di Renato Mannheimer, l'opinione di una destra che ha, tra virgolette, compiuto scelte di rottura in questa legislatura, come quella di Flavio Perini e del FLI dell'onorevole Fini. Abbiamo sentito la declinazione di cos'è di sinistra secondo Pierluigi Bersani. Abbiamo adesso un'altra componente della sinistra, la sinistra antagonista. Abbiamo con noi Dino Greco, che è il direttore di Liberazione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, chiedo anche a lei, come ho chiesto all'onorevole Perini, dal punto di vista dell'identità destra-sinistra, secondo lei, in questi anni, in questa specie di tramonto della Seconda Repubblica, quello che conta sono ancora le categorie di Bobbio, quelle tradizionali, le abbiamo sentite declinate da Bersani e da Fini diversamente, oppure ci sono categorie nuove che secondo lei nella realtà sociale della vita italiana di questi anni si sono affermate con prepotenza e legge così quello che è avvenuto all'amministrativa e al referendum? Guardi, io penso proprio di sì, cioè penso che tutte le linee di demarcazione di carattere ideologico oggi non interessino molto, nel senso che la gente è molto attenta a chi sei, a che cosa fai, non a cosa ti scolpisci a lettere di fuoco sulla fronte. Dire io sono più sinistra di te e costruire una specie di kit ideologico non soddisfa e non interessa a nessuno. Se io dovessi provare a definire su me stesso, interrogandomi su questa domanda, direi che la cosa essenziale è stare dalla parte di coloro che sono così deboli da non avere rappresentanza, porsi un problema e cercare di risolverlo praticamente di reale giustizia sociale. Rappresentare cioè un'istanza di uguaglianza che credo si sia molto persa nella nostra società. Ecco, credo che questa sia la cosa essenziale che viene richiesta. Lei citava questa enorme vicenda dei beni comuni che credo dovrebbe fare riflettere. Ecco, io penso che ci sia stata una formidabile ubriacatura, questa specie di culto del privato negli anni scorsi, per cui il privato era il luogo di tutte le virtù e il pubblico il ricettacolo di tutti i vizi. Beh, oggi la gente si accorge probabilmente che se tutto può essere ridotto a merce acquistabile e vendibile sul mercato e se non c'è un interesse comune, collettivo, che costruisca obiettivi ed interessi condivisibili in una comunità, in un corpo sociale, tutto si disfa. E questo sta portando ad una rivalutazione del concetto di bene comune, cosa sia bene comune, in una fase nella quale invece hanno fortemente prevalso e prevalgono ancora egoismi di categoria, di gruppi privilegiati, e la famosa forbice delle diseguaglianze si è ampliata a dismisura. Ecco, io credo che essere di sinistra significhi questo e bisogna provarlo nella realtà. Greco, le posso fare una domanda? Nella storia, tendenzialmente come un'analisi politologica, nella storia del secondo dopoguerra italiano, è uno dei luoghi comuni, ma luoghi comuni verificati poi dalle lunghe onde di persistenza politica, è il fatto che gli italiani in realtà siano costituiti da una maggioranza moderata, poi le cose possono significativamente mutare, sono mutate in realtà in maniera a legislazioni alterne nella seconda repubblica, non nella prima, ma che in realtà ci sia una specie di maggioranza moderata geograficamente e socialmente ben individuata, come i politologi ci consentano nelle interpretazioni di lungo periodo di vedere bene, e poi ci sono appunto delle modifiche, ma in realtà rispetto a questo tipo di identità italiana più moderata che diciamo tendente a sinistra, la riproposizione di una così forte radicalità sull'uguaglianza come valore e chi non ha rappresentanza perché proprio è la parte più debole, come reddito disponibile, come zero patrimonio accumulato, come possibilità di non avere un contratto a tempo indeterminato, come lei ci ha detto e come sicuramente si vede, che è uno dei caratteri in cui nella vita pubblica, nel dibattito giornalistico si tende a interpretare questa parte ultima della vita italiana, non significa però ricandidare un po' la sinistra ad avere meno chance di quanto potrebbe apparire oggi dai sondaggi di governare il paese? Ma guardi, io la ringrazio perché mi sta proponendo con la consueta acutezza un tema rilevantissimo. Ecco, io penso questo, che quello che è successo da molti anni a questa parte, diciamo dalla fine degli anni Ottanta in avanti, è stato un processo di rincorsa al centro di coalizioni politiche che si proponevano come fortissimamente alternative, ma per usare un termine forse un po' abusato, non antagonistiche. Però volevano il mercato entrambe, insomma, ecco. Sì, insomma, abbastanza omologate. Se noi oggi dovessimo vedere rispetto ai temi fondamentali, cioè del modello di società, ma siamo sicuri che esistano poi differenze così acute fra le lenzuolate di Bersani, le liberalizzazioni proposte, il processo di privatizzazione che fu sostenuto anche dallo stesso gruppo dirigente del PD e prima ancora PDS, DS, e rispetto invece alle posizioni liberali più tradizionali? Io credo francamente di no. Sui temi del lavoro, della collocazione da assumere rispetto, che ne so, al contenzioso che si è aperto poco tempo fa fra i metalmeccanici e la Fiat di Marchionne, siamo sicuri che ci sia poi una differenza così grande fra coloro che si sono esplicitamente schierati dalla parte della Fiat, soprattutto nel campo del centrodestra, e le posizioni che invece albergano nel PD? Abbiamo sentito Chiamparino, abbiamo sentito Fassino esprimere giudizi che sono molto prossimi a questa impostazione. E allora io quello che capisco è questo, che la gente morsa dalla crisi forse è disposta a sdoganare le proprie posizioni e ragionare fuori dagli schemi ideologici delle vecchie appartenenze partitiche. Io sono convinto che ci sia molta più disponibilità al movimento, allo schieramento sui contenuti. Ecco, i contenuti, io vorrei che noi educassimo noi stessi e la gente a parlare, farlo con la maggiore onestà intellettuale di cui si è capaci, a discutere dei contenuti e delle soluzioni. Forse questo ci aiuta a capire meglio chi è di sinistra e chi di destra. Io devo dire la verità su questa conclusione, non tanto sul ragionamento, io non ho considerato così negativo per l'Italia che si andasse verso convergenze di soluzioni più di mercato che di antimercato, però sono d'accordo con quello che diceva adesso Greco, in realtà si tende a distinguere di nuovo molto nettamente, a voler separare, ma sono d'accordissimo sulle sue conclusioni, parlare dei temi concreti, parlando di come vengono disciplinati, è la cosa più onesta che si possa fare, lasciando poi che gli italiani decidano, come è avvenuto con il referendum. Qualche giorno fa abbiamo fatto poi una trasmissione per spiegare come nell'acquedotto pugliese, come avete sentito, Vendola è costretto a dire ma io la remunerazione al 7% la tengo, però parlare di cose concrete. E io ringrazio il direttore di Liberazione, torno con Diego Gavagnin, finiamo con lui l'ultimo minuto e mezzo, perché il curatore del libro, sei di destra o di sinistra, punto interrogativo, cercatelo nelle librerie e troverete risposte che non so siano del tutto coerenti a quello che abbiamo sentito, cioè c'è questa radicalità così netta nei quesiti oppure i quesiti discendono da una visione in cui destra e sinistra convergevano? Guarda, i quesiti, il libro non dice che il centro non esiste. Dice che il centro esiste e come, ma di volta in volta il centro si costituisce a seconda che c'è un qualcuno di sinistra che in quel determinato momento storico su alcune questioni propende più da una parte che dall'altra. Io quello che devo dire, mi sembra che emerga chiaramente, che abbiamo avuto governi di sinistra che facevano politiche di destra e governi di destra che fanno politiche popolari, popolariste, populiste, diciamo, di sinistra, no? Perché insomma, questa poi è la verità, e i poveri italiani secondo me ci capiscono poco e niente. Sì. Questo arriva anche il libro, ma fammi dire su Greco. Greco sconta la grande novità degli anni 90 è quando la sinistra incomincia a incamerare il principio del merito e dell'efficienza. Lo so, però questo ci porterebbe, Diego, molto lontano rispetto al libro. Noi dobbiamo chiudere dicendo: chi cerca il libro, alla fine della trasmissione non avrà capito se non il titolo, se di destra o di sinistra, come fa a cercarlo su internet? www.seididestraodisinistra.it. Fatelo e vedrete, avrete di che litigare con i vostri figli, con le vostre compagne, con le vostre mogli, quindi dopo il litigio potrete stare più in pace. Questa è la mia idea, litigare fa bene, non fa bene però litigare troppo in politica, perché poi si dà uno scampo ai politici a non risolvere i problemi. Io, per me che voglio meno Stato, non più Stato e meno tasse, io vorrei meno chiacchiere politiche e più discorsi di merito, per dire queste tasse, tutte queste entrate, si fa così o così, poi magari vince Dino Greco e vince la Perina e perdo io, ma quello vorrei dalla politica. Invece chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Buon fine settimana, linea giornale radio, appuntamento lunedì. 9 in punto.